fa sempre il battito, lo sai che cosa poco. Io la sto vendendo un metro cubo 10 euro. È sicuro? Non ci crede, te la porto anche a casa. Ecco anche a casa. E vabbè, da domani ho tentato di uscire con Giuseppe Mezza 2. Qui ti chiamo, se c'è la sabbia di base, se vediamo se è vero o balla. Se ho capito in culo, tu per quanto sei. Che fine ha fatto Mezza 2? Sta facendo il muratore, lo sai, no? Ma non... Non entra più in radio. Domani spero di farlo entrare. A un certo punto, ma se siete roba leggera, io non penso che entri per niente, no? Sì, c'è di Riccardo, già. A un certo punto, a sentire pezzi di leggera, non penso che entri per niente, no? Guai. Mi auguro se si... Non ho capito. Cioè, ma proprio oggi siete una zanta, dai. E beh, Luca è sparito. No, mi ha chiamato la 25 a prendergli gli auricolari, dai, sono qua, dimmi. Va bene, ti pensavo che è sparito, là. Un po', ma c'hai WhatsApp, ti mando una foto. Ce l'ho WhatsApp, aspetta, però bisogna che mi mandi il numero, se no non posso, hai capito? A un certo punto... Lo sai che mi hai chiesto anche l'amicizia? Aspetta, due minuti. Ti do conferma, due minuti e siamo a posto. Due minuti, aspetta. Oppure, secondo me, se non volete bene male, vi prego, non volete bene, secondo me, oppure se non ha fatto... Cicu. Mi hai chiesto l'amicizia? Ce l'ho io, cazzo, nel telefonino. Aspetta un minuto, ti confermo l'amicizia e siamo a posto. Ok, vai. Ti credo che sei io, ma che sei tu mi, la verità. Se non ti dico no e basta, per l'amicizia siamo a posto, Non mi arriva nulla a me. Allora, io a un certo punto ti ho mandato una foto, lo visualizza su WhatsApp. Appunto. E quindi, non ti ho risposto, ti ricordi? Dai, guarda, io mi vedo col bicchiere in mano, dai. Mi aspetta, guarda. Te la sto mandando, guarda che carino che sono con la barba, guarda. Sì, aspetta prima. Devo fare la conferma per l'amicizia, vedi tutto. Aspetta. Eccolo qua, è arrivato. Tanto, in campagna sì. Che cosa? No. A domo? Cazzo di signori chi fai? Sembra così, ma rende la boomerang, Lo so che si arrende, e tu non farlo. No, rende, non si arrende, rende. Cazzo, E a Pompugno, non so, ma l'ho risposato a Pompugno. Non ho capito, dimmi. Ma ti avrei sposato? Era un divorzio da testimone. Che cazzo, ma sei scemo, cazzo, o cosa? Cazzo, ma che due non si possono amare amandosi? Ma che parli, cazzo, di sposi a me, cazzo? Ma fanculo, vai. Ma c'ho due figli, tu fai la donna o fai l'uomo? Vai, fate fanculo, vai. Ah, adesso non mi sta trattando male stasera, boh. Per carità, proprio mi sta trattando, sempre male mi tratta a me, Pompuglio, sempre male, bomboli. Pagare Antonello Motocompa. Antonello Pedivella. Antonello, ma dici che sei stato male, cosa c'è? Oh, capito, dimmi tutto, forza, dimmi. Allora, sai perché è così Pompuglio stasera, Pompuglio? Perché non ha... No, è cosa, come dici tu, dimmi tutto, io, forza, cosa c'è? Perché se mi stai trattando così? Ti ho detto se stai bene, se ti sei ripreso. Io sto bene, forse tu, non so proprio i miei, la verità, io non ti ho detto niente, io sto bene. Non ho capito, non sono problemi miei, io ti ho fatto una domanda, se mi vuoi rispondere, se non fai come vuoi. Ti ho detto, se stai bene, ho saputo che non sei stato bene. Sto bene, ho detto, basta, sto bene. Perfetto, sono contento che stai bene. KK e K del Roggero. Allora, tutto questo airbag si va bene, funziona bene. A voglia funziona bene. Vabbè, questo è un airbag veicolare, 4082. 200, no, 160 canali, o 240, non lo gioco, vabbè. Bene, ti sto arrivando, Luca. Una bomba. una bomboletta. Tutti forti siete, tutti. Franco mi sa che è il più forte di tutti, vabbè, più vicino. Poi c'è Antonio, Antonio Michella, e poi Bombolino, sono tutti forti, dai, non ce n'è uno basso, anche Bombolino sta arrivando ben forte, di solito mi arriva 9, 9, 10, cazzo è sui più del più 30. E questo c'ha 12 watt, 18 modulati, macchina veicolare, di vecchia generazione, dai, però già va bene, già funziona bene. Avanti Antonello Alessio, non riprende più Antonello Alessio. Mi fa un passaggio qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio, prova radio, prova radio. Dai, ti ho mandato il video su WhatsApp. Adesso me lo guardo, riprendi Bombolino. Capa, no, già, è buonissimo quell'Airbex, la verità. Ma sei con l'MB più, ma, quell'arma più 3B, con quello lì sei. Avete parlato in due di nuovo, chi è sta parlando in due? Comunque c'è anche Franco e Claudio. Ciao Claudio. Ciao carissimo. La amplificata che si è andata a Ruglia è lui. È lui, amplificata. Cazzo ne ha preamplificato e c'è Luca che bello eh. Mi ha trovato messo il gocco. Ci ho detto non aggazzatemi, di la marina allontanarsi. No, che mi seguo di Svezia tu. Io vorrei dire una cosa solo e basta, poi chiudo. Ma perché parlate tutti uno sopra l'altro? Quattro gorre di gramma. Non so perché parlate sovramodulando Antonio. Ma Antu. Allora facciamo un fusco, no? Allora facciamo fusco, no? C'è anche Franco, avanti Franco, fai girare su, vai. Beh, è un casino, troppa gente c'è, davvero, quattro gatti ci sovramoduliamo pure. Ma un po', ma c'è, li ne hai attaccato, Antone? Chi sei uscito? Qui sei attaccato alla piena della birra, avanti Tino. Buonasera, buonasera. È Antonio che si sovramodula a tutti, ga. Colpa di Antonio, ciao Fra, manco sapevo che c'eri tu. Ciao, Nacchiattino. Però specifica chi è Antonio, Antonio Bombolo, colpa sua, La cosa è diventata forte, sta sempre sovramodulando. Vabbè, possiamo sempre mettergli la portante triangolata e non parla neanche col muro. Ah, dai, che pure la portante. Come fosse impressa a Claudio, chissà cosa, che va Edo, vai che è una buona portante. No, a me è cane, è arrivato il portante di riserva, Ma se Claudio non abbracciava che aveva 30 anni, chissà cosa che va Edo, cosa rifai a va? Si conferma. No, chissà cosa, no. Io che ne arrivo che su che fare buccione, di buccione, vedi che... E poi la portate a tutti. Adesso mando una foto a Bombolino, adesso è Bombolino, adesso mando una foto, sì. Ma a me si intende. Sì, tu mando una foto, aspetta un attimino. Tu posso fare due risate, aspetta. Sì, dai, prova, mandami questa fotografia, vedi cos'è questa cosa. Mira, vedi tanto cos'è pronto ma domani, mi. Che Massimiliano mi ha finito l'alimentatore a 24 volte, mi. Che c'è ancora più umano, allora ti mando la foto. Io non ho una del ventolo, una tre in Napolo, Tutti andando, tutti ventolando. No, ormai lo provo. E domani esce un buco, esce. Se non si attende i lampioni a carbonazzi. E sicuro? Non lo dicevi, io ne ho uno, 24 volt, 50 ampere, a trasformatore. No, io mi... Ho dato due alimentatori da 50, con Camuro de Bonga, di sicuro. Massimiliano me li ha accoppiati e mi sta provando, mi ha provato il coso e mi ha mandato anche la foto. Questo è ancora più grande dell'altro. Io non vorrei dire, però c'è qualcuno che ride sopra mentre parli, E chi? Io non vorrei dire, però. No, sono io sopra che mi hanno mandato, mi è scappato un dito, mi hanno mandato una foto, no, te lo dico, sono io, una fotografia e sono con grimaldi dalle risate, non ve la posso più. Lo senti anche io, C'è una grilletta facile, c'hai, Antu. Io ragazzi sto usando un Airbus 4082 con 3 watt. Guardate che passo, giro la sedia, Non mi fate adirare per favore, ma però. No, aspetta, te l'hanno mandata, sono qua già calato, non ve la posso più. volta che parlo col baracchino a conservati mi sono ammodulati, adesso basta, colpo di Antonello Alessio. Che suga, bella roba. Niente, la verità, quindi... Ma posso riprendere, posso? Prego, prego. Non tutti, posso riprendere o no? Tutti, tutti. Ok, allora, là. Tino, ho visto le salsicce già imbustate. No, già vendute, me ne è rimasta una solo, devo farne almeno altre 40 kg per l'ordinazione che ho, però adesso queste qua le devo dare per forza. C'è un po' di soldi da investire, ti ho detto. Io devo salire un po' di quota, mi servono soldi. Comunque eravamo buonissime, eh. Grazie, grazie. Tino c'ha il padre che è molto bravo, e cosa vecchia quella del nonno, tutte le, sono ricette vecchie. E uniche soprattutto. Ma allora anche a me la ricetta della farfalla che fai. Sì, te la posso fare. Sei papero, caro. Io pago. Allora, adesso abbiamo cambiato radio, cazzo, ma tu, adesso arriva più forte Claudio. Adesso basta, mi avete fatto tirare, ma però, Cavolo, 9.40 sei arrivato, sparire. Sono passato con l'altra mano, Scusa te. Maledetti, ho detto, voi potete, io non posso. Ma la radio buona è, malata è. È buona, buona. Aspetti, ti mando una foto domani, cosa attacco, aspetti. Dai, di bravo, già lo sappiamo cosa attacchi. Guarda, volevo vedere uno da 5 kW, è che purtroppo non ce l'ho, non ho 5 kW qua, ne ho 3 e basta. Beh, tu la notte agganciati al vicino, tanto non se ne accorge. Fai cacchio, non attacco. Si fa una brolunga, attacca al vicino, tanto le notte tutti il sudato, sono tutti dell'umidi. Oh, Rise. Questo è un di grandezza. Rise, ma la pizza sta aspettando. No, oggi non è mica mercoledì. Ah, è vero, oggi è sabato, cavolo. Vabbè, niente, dai, Pomponi, non ti cazzare, dai, stiamo scherzando, mamma mia, ma però. Oh, Antonio Pomponi, ma tutti e due te li ha mandate. Ma sono con Grimbato, non ce la faccio più, ma. Antu! Ehi! Riserva, Antu! Eccolo! Ma se dovessi chiamare a Cristian, me la fa portare a casa? Dipende che cosa? No, Cristian, scusami, all'altro. No, non ne ha più, è chiusa. Ah, allora ciccia. Ha preso adesso la gastronomia della piazzetta. Ah, ho capito. Ma dove la gastronomia? Dove cacchio è? Ah, sì, ho capito, sì. Beh, dentro la piazzetta c'è la gastronomia. E lui ha preso quella lì in gestione. È un ristorante, fin quando non si potrà aprire bene la sera, cosa va a fare? No, niente, stavo confondendo io, va bene. No, pensavo che le portavo, la facevano anche a domicilio, capito? Poi all'inizio l'ho fatto per cercare di... ma la gente era abituata ad andare a mangiarla lì, e lui faceva le pizze gourmet, però alla fin fine cosa fai? Erano troppe gourmet. Non si buono, non ti va se ne va nulla. Nulla, ecla. Bobo. No, ma sono fatti i sciti di lampione e si attendere a di lì. A voi entra che sono entrato, io posso andare a zamba. Me. Hai svegliato il cagnolino, caso che stava dormendo. Bobo, adesso mi tocca mettere a fuoco la bomba, neanche me l'ho capito. Io vi consiglio di non stare nelle vicinanze di casa domani, anche se non si incendia il radio. Che ragazzo Gnocchi. Visto l'aereo. Mamma mia, ga. Era dentro l'armadio, adesso l'abbiamo tolto fuori, abbiamo dato una pulitina, e chi ci vuole fare la bubù, Ma l'evento le vado in nome di casino. Non me la fottevo da me l'evento, però. Microfono normale, non si sente l'evento con il microfono normale. Ma se no chiudi il mic again e metti solo la portante. No, già modulo io. Modulo con il microfono, bu. A voi tenderò fuoco e scenderà l'aria. Ciu ciu. Oia, Lucas. Le lacrime ci ho ancora, la massa che te ne vale, la massa di fotografie. Dino! Ma non ho mandato niente per ridere, quindi cosa mi metto a ridere così? Non te l'abbiamo mandata te la foto per ridere? No, aspetta che prendo il telefono, ma non credo. Vada a vedere, dimmi se non te l'hanno mandata, già te la mandiamo, vai. Però a me non me l'hai mandata la foto del Radio Market. Vai anche su WhatsApp, vai. Toma la tela la foto del Radio Market, guarda bene se ti piace. Ma già lo sai cosa mi piace a me? Sì, quella Radio Foto Market, guarda, controlla. Ah, io, pagando va. C'è una cosa che ti fa fare la cacca a te. Cazzo, io sono fatto modello, Troppo. Sembra che non mi sono come le donne, con la tua birra però. Cazzo tu, Anto, non ridere Anto che ti capotteggi. Ciuccio. Aspetta che devo prendere cose da fuori. Oie, Anto bello, che... Siete disgraziati che siete. È vero, Garier, quindi ti piace quel giocato? Anche a me piace la verità. E cosa? Niente, è quello che stai usando. No, io non sto usando niente adesso, che non ce l'ho. C'era Massimiliano che mi stava accoppiando gli alimentatori. Avevo un Galaxy e boh, alla massima potenza, 20 watt. Sì, barretto, quanto è bella. Sì. Se non ci credi, non so cosa dirti io. Beh, mi stanno tutto dal di cielo. Cazzo, quella col barretto è fantastica. Oh, ma se mi sono commesso non la faccio più, capisci, non c'è problema. Hai visto tu che occhiali da sole che c'ha? Cosa ridda, eh? Perché sono proiettati verso il futuro. Per carità. Piscia. Vedete già entra la galice, ha detto che sono attaccato. Domani entra, te lo faccio vedere i geniali. Lascia perdere, sono Galaxy con 20 watt, 20, mi adesso lo abbasso, 20, ecco qua, 15, adesso è 15 watt. Mica niente, fa niente, che quando esci 15 watt, quello che non c'è, non c'è capito niente. Non c'è problema, sempre va bene, però che ti dia un segnale cato strano, la verità è veramente strano, quindi dove è 30, quello che è, no? Strano, se vuoi ti dire, così me lo danno a me, perché pensi che arrivo di meno io da Luca. Da Luca sempre 9.30 sono arrivato. Da Tino, se c'è una potenza alta, sì, 9.25, così. Capito? Da Antonio arrivo 9.40 io. E glielo grido, arrivi 9.30 Edo. Poi si conferma, 9.40 da me, eh? Ma siamo aperti noi due. Io a te ti vedo. Non è che non ti vedono. Aspetta, ultimo segnale, non penso che ci arrivi nessuno. Domani lo facciamo salire a 50. E quando c'è le 50, io, forza, guarda, e io, pompa, pochettino. Attacca quella che gioca, io, dai, 5 minuti. Non ce l'ho, ti ho detto, non ce l'ho. Non ha giù, domani me lo danno, domani che l'ho dato per allineare il 24 volts. E da perché l'ho messo, cazzo? Perché non mi farmi contento? Non ce l'hanno. Anche bisogna scrivere le cose. Tra l'altro non mi devo lineare, Torra. Domani te lo faccio sentire. Se non c'ho l'alimentatore, cosa devo attaccare? Non funziona a 12 volts. Vabbè, già ci credo. A metà però. Comunque sia, vabbè, non c'è problema. Ma sono solamente mai pronti. Io lo so, non c'è problema. Aiuto. Ma cosa vai, Antonio? Io dici, non c'è problema. Cosa c'è, Antonio? Se tutto non è un lineare. Insomma, in greco da giù in novità. Adesso ti metto a zero la radio. Usci, vedi. sentiamo dopo nel caso, se ne avete voi, da so, ciao. Siamo qua noi e Luca sta mandando le fotografie di quando era bambino. Ma cosa te ne porti in capo? Un casaro? Ciao T. Anto, ma mandatela quella col secchio in testa, Luca. Eia! Brava, veramente, sono cominciato. Cazzo non te li vedo, tu. Madonna. Io non so cosa vuoi fare, cosa ti posso fare? La tua, come purtroppo, non è stata... per i migliori. Oh. Quanto è natura, ma quella è super natura. Così è. Ciao, la verità, c'hai un bel pizzetto, una bella barba. Però non capisco cosa ti hanno messo in testa. Cazzo, che siamo in mari. E io sto riattese. Cazzo, ma non ti divertisci le cose. Le sopracciglia. Non siamo con la carota di Star Trek. Beh, questo è fare il radio, dai. Lui te lo sto volendo. Cazzo, le sopracciglia. Ma dai, è pompa, pompa, pompa. Sei una così, pompa, pompa, cazzo. Anto me, adesso ti avviso più se ti mandano a far culo, eh. Già lo so, io perdo la pazienza subito. Cazzo, muoversi. Ma io muoviti però, cazzo. Pompa, aio, pompa, pompa. Sai che non è a me. Pompa, si pompo ti mostro già stare in aria al baracchino. Lasciami stare, Anto me, cazzo. Sto divertendo, ci vuole a rompere le balle, pompa, pompa, pompa, pompa. Volevo pompa. Se tu hai sto usando il gas alla massima potenza, devo togliere e mettere la radio a zero. Cazzo, allucinante scemo. Specie la trimettina, cedo. Minchia, cazzo, me lo farà dirare. Non c'ho niente, Antonio, non ne ho. Me lo sa anche Antonio, c'era anche Antonio. C'ho due alimentatori che mi ha sistemato a Massimiliano e domani devo provare a lineare quello dell'RM Italy perché non c'avevo alimentatori, capito? Ma non c'ho niente attaccato, cosa devo attaccare? La mazza devo attaccare. Cappa, comunque qua, che bravissimo, pensavo che era più monellino, invece è bravo. Ecco, Filippo. Ah, hai visto? Ti ho presentato. L'ho presentato a Filippo lui stamattina. Ah, ma ti manda la bomba, cara. La bomba mi vuoi mandare? Mandalo. Ho già mandato anche Antonio, a Bombolino. Mamma mia. Sì, sì, sì, Uga. No, adesso ho messo me. 10 watt. Esci a vedere. Allucinante, gente. Sì, no, l'ultima l'hai mandato con quelle basette così, allucinante. Ah, no, guarda, mi esci a vedere. Ah, sì. E sono molto costato con i piccini. Tutte le figurine, qua. Cla, fa la cosa, io siccome il messaggio non ti posso mandare su WhatsApp, va a fa un culo. Grazie Calai. Oh Claudio, ciao, io sono andato in diretta. Vabbè Popo, ma guarda la foto su WhatsApp. Non rispondo, lo sai che su WhatsApp non rispondo per niente, a nessuno. Quindi non posso rispondere a nessuno. Grazie Antonio, sei un amico. Grazie dei saluti. No, sto mandando delle foto allucinanti. Luca, di quando era ragazzo. Pesce Maria Gara. Domani ve lo dico a signora Gatterina. Dico, signora Gatterina, ma perché l'ha fatto così da piccolo? Ah, Popo, te l'ho su Messenger. Ce l'hai Messenger? Ce l'ho, che devo fare. A punto di... Ce l'ho su Messenger, che devo fare. No, se vuoi ho dovuto mandare un saluto a Claudio, gli ho mandato in diretta, non su WhatsApp eccetera eccetera, quindi a un certo punto, cioè meglio in diretta che di là, ecco guarda, addirittura, e ho dato un messaggio, no? Non so che, se sia lui o chi diavolo sia, ma comunque sia, adesso è solo due, figurati, magari sono 3, 4, 5, cosa ne so io. Guarda, boh, non siamo guardi, boh, allucinante. Tu te stai lì, 2, 3, visualizza, guarda, ti piace? No, la verità no, non è paccioccio, è un maschio. Ho tomato la foto con io, la mia ragazza e del volume di paccioccio. Scusa, a un certo punto, quando mi vado... una cosa del genere. Se è femmina rispondo, se è maschio o no? Mio amico allora, no parole, veramente. E cosa vuoi ti dica, vedi? Lui saluta così, non so cosa dirti. No, no, Tony, io non ti sto mandando niente. Sto solo guardando la foto che mi sta mandando Luca, perché sono veramente da ridere, che è allucinante. C'è, la mazza viene in valica. Vabbè, quindi, tutto a posto, ci siamo divertiti 5 minuti, e ci metto a posto il telefono, basta, Fate ragazzi seri, Serissimi. Cazzo, ma dimmi tu che papà è andato a smettere ma c'è il buono dei peccisti, bro. E come ti mai, meno reddo, No, sono io, manno. E sugo. Sai, guarda. Ho visto un culo lungo, non può essere, cazzo, non può essere Claudio. Dimmi di no, cazzo, Luca, dimmi di no, che non è lui. No, Claudio vuole far vedere il culo, vero Claudio? No, sono allergico io. A me lo male, pensavo che lì tu muovi, la verità. Claudio c'ha un dalmata. Un dalmata? No, c'ho un beautiful. Cos'è il culo del cane tuo, Claudio? A questo punto, perché ho visto una cosa marrone strana che sta facendo la cacca, non lo so. No, mio è un cane educato, vero Antonio Bombo, vero? Ehi, cappa, cosa stavi dicendo? Che stavo guardando una cosa? Ha detto che il cane mio stava facendo la cacca. E io gli ho detto, il cane mio è educato, vero Antonio? Me la farà pure lui, la farà. Però la fa nel posto giusto. E certo, nel vasino la fa. E io ho visto una foto strana, la verità, e quindi mi sono subito interrogato, la verità. Ma non mi diceva mai, io non sono venuto da... Io stavo solo ridendo per le foto che ha mandato Luca, capisci che passano lo straccio sopra le radio perché ha già appoggiato quel veicolare, ma tutto è sporcato. Lui, ragazzi, la massa viene in varia. Lui, ragazzi, per carità. Ho mangiato troppo stanotte. Sì, piadine mi ha mangiato io, buco. Quanto sei piadine? Ehi! Cazzo! Cazzo, sono buono! Ma te ne sei volto, te ne mangiate? Tu, ragazzi. Mamma mia, come sto! Io anche un cambiaggio visto il viso dell'uomo sapiens, che te ne ha fatto troppo ridere. Hai visto? Hai visto? Hai visto, ne ha visto, eh? E allora? Hai visto come sono un dappa che si fronte, Icla? Ehi, mi sa che è anti-covid. Che sei, boy yuk? Che suga? E si pongo un macchino. Poi a santi lumi. Se io attacco la friggitrice a baracchino, mi passano di più di watt. Dipende da quante patate ci metti dentro. No, io attacco la 220, poi metto PL, 2PL, femmina e femmina. Attacco lo spezzone e mi ha detto che esco un po' più forte, è vero? Sì, ma cos'è raddocche? Il pompone me l'ha detto. Sei sicuro? Antonio, anche tu dai questi consigli. Io ho detto niente, la verità. Io sto scendo con la barchino che fa schifo. Quindi a un certo punto non ho detto un cazzo io. A un certo punto. Quindi, non cerca da me, cerca qualcun altro. Sto usando l'otto 57D. Un cesso e quindi siamo a posto. Quindi se lui ha sentito qualcosa, l'ha sentito da qualcun'altra parte. A un certo punto. Non so famulami. Oggi non sei in vena, Antone. No, sono io, Antone, che stavo regolando qua, che sa che non funziona questa cosa. Stai chiuso saturo adesso, il cazzo, ma se mi sono male forte. Ma Franco, in parte già l'avete lasciato, Franco. Ho sbagliato io, adesso va bene, dai. Franco, ci sei? Lo sai che ha chiuso? Ha chiuso, Franco. Mi sentite bene adesso, perché ho sbagliato la taratura poco fa. Adesso non va andare bene. Ancora c'è un buon prendi, Anto. Pompa, pompa. No, non è per pompare, no, è che... Ecco qua. Ho sbagliato un po', capito? Lasciamo un po' riposare, là. Quanto ti arriva Antonio, Antonio? L'unica cosa che posso dire, guarda, è un suggerimento perché altro, da amico, non attaccare, cioè, nel senso, di 4 watt in quell'apparato che stai usando, che ti hanno l'app che ti ho detto io, che ti ha detto anche Claudio, ingresso non attaccare, il discorso è quello, se no bruci tutto, il discorso è quello lì, poi puoi attaccare quello che ti fa, ti piace, il discorso è quello lì, non voglio sapere niente, perché non me ne frega niente, puoi attaccare... Cosa stai dicendo? Quello che è, però lo sai anche tu, e lo sa anche Claudio, quindi è una cosa che ti dice, per il bene tuo, quindi a un certo punto, con quell'apparato che c'hai, che ho capito quale che c'hai, quindi a un certo punto più di 4 watt e mezzo, 5 watt, non va in ingresso, in 27 in M, se ne hai più, rischi di bruciare tutto, il discorso è quello. Ma cosa ti dicendo, Antone? No, non ho capito cosa stai dicendo. Cioè, poco fa, praticamente, c'avevo più watt perché me lo sono dimenticato e ho dovuto regolarlo con un'altra cosa. Poi qua di watt ne posso mettere quanto ne voglio, non è un problema. In quello adesso sì, ma in quello poco fa, no. Hai capito? Mi sembra aver capito che tu ci avevi non quello, ma un altro apparato con la K, capito? Tutto lì. Non mi ha detto nessuno, però si sente, cazzo, la modulazione, si sente da un chilometro, l'ho avuto io, quindi non lo so. Cioè io mi faccio gli affari miei, il discorso è quello. Però a un certo punto non puoi dargli l'ingresso. Se c'è una cosa del genere, più di quel punto, perché rischi di bruciare tutto, il discorso è quello io, solo quello che è. Fatto amico, e credo io lo sa. Antone, guarda che qua io qualsiasi radio la so usare, e ho sbagliato solo qua, ho sbagliato, perché ho lasciato i vati più alti di come erano, che non andavano, non ci andavano a copiare a quello che ci ha attaccato. Ma io secondo lo capputtoio, io in una radio del genere ci metto l'amplificatore, ma non esiste. Non so di che radio state parlando, sinceramente. Penso, però, siccome l'ho sentito poco fa, mi sembrava che lui ci avesse picchiato un altro apparato diverso da quello che stavo usando qualche giorno prima, il discorso è quello lì, tipo che io vedo cosa del genere, quindi 440, 430, 140, quello che è, non me ne fotte nulla, però se gli hai molto più d'ingresso è un casino, il discorso è quello lì, quello stavo dicendo, ma se lui mi dice invece che il discorso è diverso, allora sto zitto, basta, il discorso è quello. Pompo, ma è vero se è positivo al coronavirus? Ale, una cosa, pensa a modulare, pensa, no, già lo so io come devo operare le cose. Ok, tagliamola qua che è meglio. Aspetta, Bomburi, mi sono modulato un attimo. Pompo, ma è vero che sei positivo al coronavirus? Magari. Cazzo, ci diano voci su Facebook, Sono scritto nulla su Facebook, ma sei scemo sei, o cosa? No, non mica l'hai scritto tu, l'hanno scritto. Antonello, punti positivo al coronavirus, No, vabbè, non interessa. Non ho scritto mica io, sta tranquillo. Questo è poco ma sicuro. Ah, vabbè, forse un altro allora. No, non tu, no. E c'ha un Tampax appiccicato in fronte. Io ho giocato con il mancato di riballa stasera, certo, ah, se con poi ti voglio bene, lo sai, sì. Chiama d'accordo, se ci vuole un virus, guarda, non è meglio che mi suicido, cazzo, a un certo punto. Se ti guarda un video? Ho detto, se avessi avuto il coronavirus, mi suicido, non è che mi devo fare un video. Lo sai che video me lo faccio, senza Dio. Pompo, sai che se prendi il coronavirus ti danno un bel di soldi. Cioè, ti aspettano che mi arrivi anche a me. Ti danno un bel di soldi, perché non puoi fare niente e ti danno un bel di soldi. Sì. Questo lo dici tu. È perché non te lo pigli tu con una pizza, a posto mio. Già ce li ha, Antonello, i soldi, Lu. Ecco. Che già ce li ha i soldi. Chi? Antonello. Beh, già lo so che sta bene, sta meglio di me, sicuro sta meglio di me. Anche meglio di me. Cappa. Beh, sto arrivando, Clara, l'87 con l'NB più 4. Quasi 9 più 30 da 10 5. Quindi treni Danfax. Io sto usando l'Airbus 2230 con l'MB più 3. Come sto uscendo? Grazie Antonio, ha un mostro, sono sul 3, sì. Sul 4, sì, quanto? Ma c'è Claudio davanti al 3. Ma c'è Antonio Bombolino in mezzo, tra il 3 e il più. Ma non mi soddisfa, non è che lo voglio tirare un aizzarello qua. Ancora devi tirare, tira di un godo. È poco a poco perché c'ho l'LC basso. Ma è fuori il capatone. Ma come lo fai con l'abitatore, Antu? Allora, mi sono comprato quello della Parkside, da Lidl. Ah, più potente te l'ho preso io dalla macchina. A lui un palanco, Antu. No, c'è scritto abitatore per media frequenza, io l'ho comprato. Io non li uso più che c'è abitivo, uso l'abitatore per avvero mi. Se poi posti, ti serve l'abitatore per spostare le medie frequenze, dimmelo, me te l'ho preso io. No, io c'ho bisogno se vuoi per quello, fa tutto. Io c'ho una pedivella. Una gamella. Ma che immagini tu poi col pisello, cosa potrebbe fare? Mamma mia, ce ne pongo un cacciavite a croce, lo sai come ti si avvita tu? Ma guarda, io so... Non ce la posso fare! Santo Antonio mio, io se no vi so a taglio mia. Davvero me, io uso l'abitatore, te lo piano, tu, e faccio la regolazione. Sì, uso l'abitatore, vai, è meglio che usi il pizzello, almeno quello cazzo è tranquillo. No, è troppo grosso, non va bene il pizzello, non va bene. Ecco perché c'erano tutti quanti i baracchini sfasati, perché non puoi ritornare col pizzello. Ah no. Ma siete maniaci mi. Meno male Tino è a posto, cazzo. L'unica persona che è a posto qua. Vende salsicce e se ne fate le balle, la verità. Fatti bene sì. Cosa ti serve la salsiccia? Cazzo, quel piattino la stai cercando? Anche la salsiccia vuoi, Antonio? Ma insomma, ma quando vai? Cazzo, Tino! A popolo gliel'hai regalato qualcuno, ho venduto. Oh yeah, oh yeah. Oh, no. Non ho detto niente, la verità. Oppure la mando la salsiccia, la vuoi la mia, su WhatsApp? No, neanche molto, la verità. Se vuoi la spazio con qualche ragazzina, quelle ragazze che ci sono su, che vogliono su di 3.000 euro e ti chiedono la fotografia del salsiccione, cosa posso fare io? Chi c'è che come mia conoscenza che l'ha fatto? Quanto me, tu cosa ne sei che ho 3.000 euro? Ecco più di salsiccione. Ma quelli che c'erano la sorbente attaccata a fronte. Senza sorbente. Ti giuro, guarda, non ti sto chiedendo balle. 3.000 euro per non mandare le foto ai parenti, in pratica gli amici, del suo pisello. Il discorso è quello. 3.000 euro volevo. Anto. Ma come lo voglio, a un certo punto o in definitiva? Se tu ce l'hai a metà, ascolta, dagli la metà, cosa vuoi ti dire? Quindi lo vogliono sia a un certo punto sia in definitiva. Secondo me è completo di palle. Dici tu cosa vuoi fare? Dici, completo di palle. 3.000 euro, completo di palle. E non ti metti anche di fare risposta. Come tu vuoi, a un certo punto o in definitiva? No, direttamente. Io da mal. Tutto intero lo vogliono, è fatalmente cremato, tutto intero là. Quello è veramente un frontale mortale. Sì, sì, la mazza veniva le lacrime, immagino, cazzo. Bomboli, sta attento di capoteggimi. Ma non c'entro più, solamente che entro io c'è casino. No, ma se ne fosse di casino, questo è divertirsi con il casino, per carità. Non è che a un certo punto tu puoi fare quello che ti piace, o lo fai in definitiva o a un certo punto. È come la bandiera, la sono di tutta la giacca. Sì, sì, Lugarie, pensa che a Marina si vende ridicchia. Sì, già se devora i gabbi. Mi lascio a un certo punto, tu mentre la vuoi a un certo punto o in definitiva. Lui è cazzo, i lacrime che faccio. Lui, mandami la fotografia. vai con te, c'ero dentro un viaggio, un revenne, mi ha mai detto questa cosa. Cosa ti ho detto, cazzo? Hai visto, a ultimo, Massimiliano, con la manna in capo. Quale sta allora con le Hulk? Oh, che ve ne fai della mazza, ve ne fai. Quindi, Antonè, 3.000 euro vogliono. Sì, pompo. E io? Sì, ti ho rilanciato. Aspetta che sta guardando le fotografie che abbiamo in definitiva e a un certo punto 3.000 euro. E mica le mie, cazzo, ce la fai? Io lo gioco di una persona, non voglio fare i nomi, non voglio fare. C'è di una persona che è stata ricattata. Cioè, l'ha fatto vedere il magaglio pure a ridinati. Hai visto se avevo ragione io? Tu ci metti a vivere. Capito la cia? A lui, a un certo punto. E poi vediamo. Se ti ergo 5.000, non è un bel problema, 5.000 gli posso dare. Sicuramente l'ha ricattato perché viene via minore, a me non l'aveva ricattato. A me di sicuro come a te, sì. Anzi, va, ci vuole perdere, va. Ricattato io. Sì, ma me la passo mezzo un po' per denni, cosa... E cosa vuoi fare? A un certo punto non conviene. Cosa vuoi fare? Ciucucciu. Muscolo, metti ordine, io. Hai visto questa macchina, Massimiliano, stiamo trasformando in frontale, ma come fai i puttati qua? Siete maniaci, siete maniaci. Ma io ho fatto la salsiccia, che c'è fame qui. Tu, già mezza l'ho fatto fuori. Tu, sì, io ho mangiato l'altra metà a me, poco fa, con la dieta, abbiamo affittato, l'MLM ce l'abbiamo ciullata. No, Martino, attenzione che qua sono maniaci, in definitiva è a un certo punto, tu quale vuoi? A un certo punto. E allora mi Antonello lo sa qual è quella di un certo punto. Diglielo Antonello. Tu dammi la salsiccia, poi fregatela, è una volta che l'assaggio, poi ci si vedrà. Sì, ma comunque Tino, quella salsiccia è più grande di quella dei pomponi, no? All'assaggio c'è solo una cosa, l'anguria. Infatti, di filo. Hai capito Antonio, all'assaggio c'è solo l'anguria. Bella per te, io la faccio assaggiare, dipende. Infatti, pure io. Aspetta, piano, una volta per volta. Tutti sono uguali per questa salsiccia. Ehi, esagerate, cazzo. Comunque sia, vabbè. Chi mi vuole dare la salsiccia una, alzi la mano, o il piede. Pompo, ma tu frontali mai fatto ne hai? Io penso proprio, ma tu penso di sì, non lo so io non guido. Luca! Cosa c'è da guidare? Un frontale lo puoi fare anche smatellato a un palo, con un'altra persona, mica in macchina, è morto. Oh, Luca. Io non faccio frontale, lo sai, quindi a un certo punto non succede. Beh, grazie a Dio frontale non l'ho mai fatto. Assomiglia a Paggiani che stavolta mi hai mandato. Cosa qua? Assomiglia a Paggiani. Davvero, mi è preciso, Ma comunque, Risè, secondo me fa la pubblicità di assorbenti. Cioè, ci manca il modello, c'è il modello, la marca dell'assorbente. Sì, ma poverino, io sono da freddo, Uniti l'uomo su Bambos. Tino. Ui, dimmi. Ciao, buonasera. Ma tu come la fai? Col finocchietto a salsiccia? Sì. Ciao, Massimiliano, sì. Ah, ok, va. Quella prende pronto che c'è il finocchio invece adesso. Perché è più grande. Oh, la finocchietto, Va, adesso la persona è più grande. Ti metto in tiri, capito? Io invece faccio piccoli piccoli. A un certo punto va macellata, così è ti. Ma ho detto finocchietto, non ho detto finocchio, prima di tutto, ma comunque sia, e a parte ci vuole anche il vino, prima di tutto, ma comunque sia, è una cosa differente. Va bene. Va bene. Il vino ci mette a fianco la salsiccia con la tavola, tre birbi, no? No, il vino ci vuole prima, perché se no il finocchio poi non te lo dà. No, ci vuole la birra, stai sbagliando. E finocchio. La birra per me, invece vino per gli altri. Sono andata, forse non ho fatto un'idea. Ascolta. Ah, Pompo, comunque io sono finocchio o il culo tuo, Avete fatto in 50 sera, per età, non capite una panculo. Quindi, uno per volta. Vabbè, però, moderiamo un pochino i termini, che ho gente qua, ragazzotti piccoli. Allora, io sto parlando, salsiccia, non mi credo. In pratica la salsiccia si fa, copri l'occhietto col vino, tutto lì, basta, poi gli altri non aggiungono il resto, tutto lì. Allora io una volta l'ho mangiata al Canonau, veramente buona, ma buona, guarda. Allora avevo preso un messaggio, ma ti parlo di qualche anno fa, lì conosceva Vittorio Multineddu, l'avevo pagata 8 euro metà. Devi dire la verità che te la sei messa sotto il giubbotto. No, un po', ehi, chissu, cattichissu, che vuole pulire la telecamera. Ti mi sigli a sempre, a me io non ho mai toccato niente. Non me ne ha fottuto, anche mia madre seguiva me. Ma mia madre si buonava a pizzicarmi la cosa, ma per carità, qua. Infatti me l'ha detto. Il Diamendola, stata qui, non ti cercava per niente. Perché tu lì andavi a metterla sotto il giubbotto, tanto me. Andava che babbo addirittura, si pigliava la cassa della birra. E in pratica scendeva uno sto piano, hai capito? Poi saliva sopra e poi saliva al primo parcheggio, quindi in pratica a metà la roba risultava. Hai capito? Non pagato. Ma che non preso, dai. A un certo punto. Facciamo a babbo la. Ma basta, sta uscendo. Mi pare la fate via la verità, Non sto uscendo a balle. Quindi figlio di tu, in via Mendola sto parlando io, a me, motivo di via Mendola. Che era bello di fare la spesa, perché si vi visto basso, zero, e poi si arrivi sopra, in pratica, capito? Ma ho capito, all'interno che si è abbassato di radio, ma non hai, dove stai andando? Sto uscendo il fumo, quello qua. Sono qua, non ti preoccupare, perché uscendo il fumo sta. No, ogni tanto però ti sparisci di radio, con un segnale che non ti senti più. Boh, non so, vabbè, è la parte che sto usando io, lo sai, l'857D è la parecchio che non lo uso, quindi a un certo punto mi senti ancora, sì. Sì che ti sento, non è che ti ho detto che non ti sento, ti ho detto che man mano che parli, come piano ti abbassi, dove sei, ti allontani dal microfono? No, assolutamente no, sono attaccato al microfono, non ti preoccupare per quello. Stavo dicendo, in pratica, quando mio padre andava lì, in via Mendola, allora c'era, già lo sai anche tu, il negozio, quindi dovevi scendere giù, salire sopra, al primo piano, e poi al secondo, quindi in pratica c'erano tre livelli diversi, e tre cose diverse, quindi in pratica prendevi, per andare a pagare le casse, dovevi andare in pratica, a piano zero, in teoria, hai capito? Quindi se salivi sopra diretto, il resto lo pagavi, capito? Ho capito, in linea di massima, come facevi però comunque a passare le casse? Non passava le casse, perché babbo cosa faceva? Passava le casse senza la birra e senza il resto, hai capito? Perché erano tre reparti separati prima, quando c'era Montinello, hai capito? Quello che voglio dire, hai capito? Quindi in pratica lui cosa faceva? Arrivava in un piano e diceva, babbo, la birra pagata, ha pigliato due casse. Ma sei sicuro? No, non ho pagato niente, mi diceva. Anche la casa non sono andato, hai capito? Prendeva se ne andava. Hola, mi sentite? Diciamo la giù compresa. Allora, Cla, te lo sto dicendo. Quando c'eravamo prima di via Mendola, te lo ricordi, sì? Sì. Ecco, a piano terra, in pratica, c'era il reparto normale e lì ci sei, giusto? Scendevi giù, in pratica, c'era il reparto, adesso non mi ricordo cosa cazzo c'era, quello che era, vabbè, comunque quella, dopodiché salivi nuovo sopra, a piano zero, cioè in pratica, la carne, quello che è, la birra, salivi sopra, hai capito? Una volta che andava nelle casse, cioè in pratica la birra non risultava, perché risultava sotto, hai capito? Non ha mai recitato niente, nessuno, il discorso è quello. Sentite? Sì, che ti sento, non c'è problema. Cappa, sto utilizzando l'apparecchio omologato, dai, già va bene. Anche io sto usando l'omologato, mi tolgo il bip e divento omologato. Anche io sto usando l'omologato, a me? Anche io me l'ho legato. A me me la legano gli altri, non riesco a legarmela io. Vabbè, già vedo io col filo di ferro che la fotidina. cosa vuoi fare? Mario spinato. No, senza spine. Penso. Cocco. Senza spine, a me non piacciono le spine. Ah, io però, Antonio, un attimo, sta parlando Claudio, che sovramoduli. Antonio, dai, non sono modulare. Ma ci vedi di qualcosa io. Ma te finocchietti ti piacciono i finocchi grandi? Un po' più due qua. Anche a me. Perché uno è tenero, uno un pochino più duro, ma comunque. Ma ti piace Maggioli o Signorini? Lordi. Cazzo ti piace un vestino? Un gronco, va. Cazzo mi piace Maggioli? Maggioli è anziano, gatto, lì è tenaro. Cazzo mi fai come tra corraccia, che mamma qui è simpatico. Allora mi chiamano giù fuo bianco le qua a terra. Io perso. Vabbè, là, ascolta, io me ne vado a cenare, al caso ci sentiamo dopo. Ok, la sua accendo, ciao. Ciao, vabbè, ciao. Muscolo! Sta mangiando la salsiccia. Sì, meglio la salsiccia vero. Non ne ha più salsiccia, Tino, sarà tutta venduta. Tutta, tutta. Aspetta, ce la mangiamo un altro pezzo, ci sentiamo dopo. Beh, non è vero, a me due me li ha regalate. Ecco, tu subito. No, Asco, mica non sono geloso, li ha regalati anche a me, quindi cosa vuoi? Un altro pezzo me l'ho fatto stasera. Vabbè, Asco, uno fa quello che può, non è che può fare, sa che sta abbastanza la frequenza, lei lo sai. Certo, gli amici più stretti, scusa. Ma me cosa vuol dire stretti? Che non sono stati allargati? No, stretti, che si abbracciano, no? Ah, ma non si può abbracciare, è vero il Covid? Ha ragione Arturo, non si può abbracciare adesso, c'è il Covid. Non c'entra niente, io abbraccio a un certo punto e o in definitiva. In definitiva a distanza. Vabbè, fatemi andare a mangiare, sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Anche io, no, che sennò poi sa cotte come le danno. Ciao, ciao. No, almeno una volta alla settimana. No, non c'entra niente, c'è mia moglie che mi deve dare la terapia, lo sei capito? In realtà anche a me mia moglie mi dà la terapia. Ma tu già non voglio dei film, cosa vuoi dire che hai detto? La terapia, mi vedi, no, sono già in ritardo. Ciao, buonanotte a tutti. Scusami, tra mia moglie e tua moglie è infermiera e mia moglie è importantina. Ma vabbè, ognuno fa dire che sono il po'. Ciao, ciao, vi abbraccio. Anche io, Antonio. Aia. Ciao, a domani se coincide. Buona serata. Chissà quanto mi avete mandato, ho visto sotto il seno che è tutto pieno di bero, di rasassi. Sì, cosa fai? È lì a città di bucarsi di rubero. E che città è? Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, ecco a noi. Antonio Bombolo, ci sei? Ciao, capa che ci sono, già ci sono, giacca. Ehi, ehi, e tu, definitiva, ci sei tu? Certamente, proprio per dirsi. Molto poco, quindi praticamente andate da Multinetto e non pagati mai. Non ho capito, ma cos'hai detto? Andavi da Multinetto e non pagavi mai la birra. Ehi, ti auguro. Ui, ui, per carità che... Ui, mamma mia come sto... Magnato è lui. Ehi, ciao Puglia, là. Con la pizza che ho fatto, che ti ho mandato, metà a me, metà Marina e due arance. Io mangio maniato, sei piadine, sciocco incubi. Ma sei piadine? Vai al bar che te la prepara l'aria, ti ringhi i diti. È fatta con l'uovo, farina, non so, sono tipo delle... Ci mette nella padella, ci hanno messo salmone, Filadelfia, boh, un sacco di cose, mamma mia. Ne ha mangiato, siete ne ha mangiato? Sono sei mini calzoni si chiamano, sono le giri, li pieghi, capito? Sembrano mini calzoni, no? Di sibizi, semina di mangiato. Mamma mia. Ma l'aria non l'ha avuti, ma la usa la farina integrale, poi l'ha fatta con gli spinaci, buona mi. Roba buona sa fare, allora, cosa vede? Scappa. Non mi piace molto, ho provato a mangiare qualcosa integrale, ma a me non piace, la verità. Magari provando in diversa maniera, non lo so, ma per la farina integrale che a me non piace. Robo da matto, cioè la Spezia sta rendendo Milan 2-0, ma fino a questa coppia. Oh, c'è questo gioco, no? 2 Spezia, 2 Milan 0. Esci Maria Gara. Cazzo di squadre salite dalla Serie B sono. Al 71esimo siamo già. Oh! hanno, mi ha detto Bacciani, allora, ma via, e come rende, no? Ehi, l'ha fatto l'ultimo che mi ha mandato Luca, che su il PC, si assomiglia a Bacciani, ha ottenuto un doppiamento. Adesso ti aspetta. No, tocca a quella incidente frontale. Parla pubblicità, grido dello Scottex, della gatta igienica. Ah, si è fatto un problema frontale, ma no, frontale però. E io vado fuori a male a punirle tutta questa fascia in capo. Se uno ti va a frontale, va a finire pronto soccorso, ti facciano, ti mettono la fascia col Tampax. No, ma in chi mi non è andato al pronto soccorso, è andato all'Eurospin. È andato all'Eurospin e la corsia della carta igienica, non è molto la carta igienica in capo. Molto poco. Se mi ha saputo 2-0, il mio. No, in più. Aspetta un attimo, guarda come Simona, sta male. No, allora vai da Simona, vai. A parte gli scherzi, dai. Se Simona sta male, vai da Simona. Ehi, Alu, mi sono girato adesso, gli ho visto Spezia 2 e Milan 0. Ah, la Spezia è salita la Serie B l'anno scorso, allucinante. Che è stato un casino? Allora, l'Inter 47, il Milan 49, la Juve 42. La Juve ha pigliato il bacio con Napoli, ma l'Inter oggi gioca o domani? Se gioca domani l'Inter vince e passa prima. A 50 sale. Sì, un punto dal Milan va. Frontale, sì sì. Frontale, di brutto. Sì, domani c'è Lazio-Inter, Inter-Lazio, 20-45. E quella è favorita perché gioca in piazza. E se vince, se il Milan non rimonta, ma non ce la fa perché siamo già all'80esimo, non ce la fa, è a pescio, culo Spezia, iscio Maria Gare. Se l'Inter domani vince contro la Lazio, passa prima. C'ho un amico, Ninetto si chiama, cazzo che Juventino, guarda, lui, proprio Juventino di Ghissi a Canizini. Ma là dove era un messaggio? Allora, che stavolta ha fatto Inter Napoli, ma Juve Napoli. No, Napoli Juve, ho già detto, ha perso. 3-1 ha vinto adesso. Chi? La Juve? Ah, se ha vinto 1-0. Così ha detto, Ah, stai dicendo che ha perso. Ma guarda, dici che guardo il telefono. Ha perso, io manco guardatelo. Ero alla radio, stavo facendo cose, non ho manco guardato. C'avevo l'auricolare, poi me ne ha giubugato, non gli ho trovato il tutto. Ma stava perdendo 1-0 sul rigore, aveva segnato Insigne. Allora, aspettami. Allora, cosa ha fatto la rumetta, signor scritto? Chiedo per un amico, 3-1 ha vinto. Ma su Google la stai guardando? Oh, su un messaggio me l'ha mandato questo qua. Vai, avanti lo dico io cosa ha fatto, se non mi intendi. Era l'80esimo, stava perdendo 1-0. Ma è possibile, ha fatto 3 gol in 10 minuti, ma non tenanti. Aspetta, lo dico io in diretta, me. Ma frontale ha fatto? Sì, è frontale solo che ha pigliato. Paghissima. Andiamo, dove andiamo? Poi ha battuto la Juventus 1-0. Inteso, vai. No. Aspetta. Cosa risultato Napoli-Juventus? Il Napoli ha battuto la Juventus 1-0. Aspettatemi. Ok, Google. Come si dice in sardo cavallo? In Sardinian horse. Ok, Google, come si dice in Sardegna a cavallo? Che fa in inglese, va, blu? No, ha detto guado. Mica guado si chiama. Vai, manda un messaggio che siamo in conduio, vai. Dite che ha perso 1-0 la Juventus. A me sta prendendo il giro, lo so, lo so. Ho guardato, il Milan sta parlando 2-0, allucinante, blu blu. Mannos. Cosa c'ha il cavallo Mannos? A me come sta scimando? Lo sa bene. Lo sa bene veramente. Quindi, la sto trovando adesso. A un certo punto. Adesso in camera, camera da letto, io sono qui in cameretta mia, io c'è il baracchino.